si dice? È bello forte il microfono, io ce l'ho lontano lo stesso. Come? Forte, ma c'è una distanza. Penso che sia abbastanza panoramico e forte. Allora, 87 con l'MB più 4 originale dalla casa. Ti sei abbassato, Claudio, guardati qualcosa che ti si è abbassato tantissimo il segnale, sei sparito completamente. Come abitano tutti, ma... Sicuramente. Hai visto che rumori? Siccome ogni tanto ho questi disturbi, però ho detto, se non l'ho fatto con lui dovrei fare anche con voi. C'è con Antonio, perché sta parlando Antonio. Ma c'è no, niente, è problema suo. Allora, è partito da 6 di Santiago, Radio 5, è andato a sparire completamente. Allora che esci dello fumo, no? Che ne esacci. È entrato 6 o sì, è entrato solo che devo... mattare mi uso il bito. Devo smontare questo... il coso del joystick della PS4, perché uno l'ho già sistemato, gliel'ho consegnato, adesso devo smontare questo coso che l'ha già ordinato il tipo, glielo devo cambiare, solo che c'ha le saldature sopra, la scheda è sotto, ed è un casino Massimiliano, sono micro saldature. E Luca quando ti arriva lì, o Massimiliano, da casa sua? Questo è da 5 watt, 6 watt, ne ha 5 watt, dai, guarda un po'. Ma 8 a 9 più 5 il picchi. È buono. Tu sei 7 a picchi di 8. Però ma non lo stai più usando quello modificato, no? Ah, Massimiliano, va, carità, tanto cos'è? Non mi più insciuma, erano entrati tu con cosa, con Costanza, lo usavamo. Ma non stavamo più nessuno, cosa da fastidio, capito? Certo, ieri c'era una propagazione allucinante del 45, ma la macchina solo entrambi. Me lo posso immaginare. Non vedrete. Ma non posso immaginare, certo che ci credo. Ma sicuramente l'ha fuso, coso. Ce l'ha arrugginito. Strano, è mancata di colpo. Guarda la foto che ti ho mandato. Questo è quello che ho spedito stamattina. Eia. Che bella però, con mezzo watt esatto quasi a 35, questo è un 3009. Guarda, Coca-Cola, carciofi! Mi piace la carciofa! Cosa, onore, non ti ho capito, avete parlato in due? Lo stai modificando a Colt? No, è già così, è già Colt. Ho capito. Vabbè, nuovo, bello. Qualche graffettino c'è, però quello non mi interessa. Però questo c'è i pulsantini, vedi, puoi eliminare frequenzive, puoi togliere il beep, di suo c'è già la regolazione dei watt, puoi togliere proprio completamente la scheda, eliminarla, no? Puoi parlare normale. No, già va bene, appunto, sta facendo la ciabatta, sì. Ehi, va bene Massimiliano, di lusso. Attenzione, cazzofa! A ne voi! No, che mi sono flaco di farlo tu! Ce l'è! E te? Tu, ci sì, cambio! Ma non è propagazione con la tua rinco? Oh! Ah, vabbè, indo! Io, guarda tu! Ma io voglio che la scuola accolto di vivendo! C'è bordello! Davvero? Eia! Non mi posso fare di massaggio, tu! Inghia, giocanente! Sei qua? Prova, tutto a posto. Eccolo qua, prova. Io dico 3, dovrei dire 3, o meno, funziona anche lei, ecco, non che mi serva, più veloce, prova, più veloce non va. Prova, ecco, al minimo. Salve, come butta? Sono tutto caldo. Ciao Antonio. ma stavi provando sul 45, sai che ti sentivo uguale a 29.775, non so se dipenda da me o se così è l'apparecchio. Sì, ho un grido via. Sì, ho fatto una spazzolatina, però vabbè, è che non c'è il canale inglese con questo apparecchio. Li volevo programmare per sentire anche gli inglesi nella loro fetta FM. Vai Gianfranco. Sì, ciao, ero solo di passaggio. Ciao Antonio. Sì, mi è sembrato, come dice Silvestro, che stai facendo bene. Ebbene Antonio, è beccata la zona più o meno. Anche Antonio è di passaggio. C'era anche l'altro ascolto, ma non c'è bisogno, c'è il baracchino, c'è il PTT e fa un po' di scarichette. Senti. Non più di tanto, dai. Bene. Giorgio Frasse, sei di passaggio, anch'io tanto lì. C'è un film che non ho mai visto su un astronauta, non so. Non mi ricordo manco il titolo, The Martian, il sopravvissuto, qualcosa del genere. Sì, ma l'hanno già dato, sicuramente esiste quello con Pat Damon, che va a recuperare quella vecchia nave russa e cambia la batteria, c'è quell'attrezzo tipo drone che lo insegue, insomma è quello lì. Come mi sedete, Saturo? Forse un po' Anto, ma sai cos'è? Siamo troppo vicini. Poi c'ho un altro apparecchio, non saprei se la saturazione è dovuta alla vicinanza. Ti volevo dire Anto, ma l'hai beccato il segnale del portantista più o meno? Dove è? Che zona è? E vabbè, i noghi vuol dire, cosa vuol dire 50 metri, 100 metri, un isolato, due isolato. Vai Massimiliano. Ma ancora l'eco, Pucci, aspetta, via. Non mi ascoltate? A voi la ascoltiamo. Di lusso. E a voi, voilà. E anche io l'ho tolto l'eco. Ma quello è un 48? No, questo è un S9, non è un 48. Bella la timbrica. Aspetta che ti mando la foto. Bello, io sono innamorato di quell'apparecchio. Allora fate, vendo, compro, vendo, scambio. Guarda, ci credo che tanto figaro, guarda. Ma mi sentivi sblatterare. Io? No, allora, io ho fatto una carrellata anche su canali alti, no? E ti sentivo uguale a 29.775, però potrebbe essere sia il mio apparecchio che la vicinanza. Come una specie di copia, un duplicato della tua emissione, mi? Gesù Cristo mio, esci, mamma mia, quindi. Ecco, così va meglio. Papà, così va bene. No, che bisogna sentirle. Stavo dando tutta la potenza, stavo dando. Ma non è stato favorevole, però. Attento, va bene così. Allora. Avete ripreso in due. Momolo ovviamente a fondo scala, ripeti a Massimiliano. L'ho vista la foto, sì. Sempre quei problemi lì dei segmenti ci sono, Un bel di gente si è lamentata. Ciao, sì Marco, ma il problema sai che cos'è? Che non ce n'è da nessuna parte. Perché io se poi lo metto originale, non lo voglio. Allora, se l'ho trovato, però è rosso, a me il rosso non mi piace. No, infatti deve essere tutto uguale, cioè c'hai l'indicatore canale azzurro. Lo Smith era azzurro, deve essere azzurro anche il coso, se no comincia a diventare una carnevalata, uno di un colore e uno dell'altro. Sì, stessa cosa, molti sono lamentati che non trovano i ricambi di radio che erano vendute fino a ieri erano vendute dai negozi. Secondo me i produttori per vendere nuove radio, i produttori cinesi, non mettono in giro i ricambi, cioè li usano solo per produrre radio ma non mettono i ricambi in giro, in modo che poi fanno la versione nuova e vendono un apparecchio nuovo. Proprio quello è il casino, e anche perché questo, per esempio, poi quando schiacci per entrare in trasmissione lo Smith diventa sul arancione, sembra, là. Sì, a me piaceva il 9, appunto l'S9, poi uscito il 980, 975, però troppo esasperati anche come apparecchi. sicuramente scalderanno anche un bel. Ma io ti dico che questo non scalda niente invece. Sì, questo è S9, no? È nel 980, nel 175, S9 questo. Primo modello con 3 transistor a MOSFET. Ehi, cosa ti volevo raccontare? Massimiliano, io il passo l'ho fatto, speriamo che arrivi per la strumentazione. Io sono qua, però vi saluto, vi sto guardando la partita, Massimiliano, c'era Juve al primo, Coppa Italia. E adesso scendo nel piano di giù, dai, sono tutta la storia in radio. Va bene che va bene, questo è Marconi con mezzo watt e stato a 40 watt, quindi... Ok, dai, ci sentiamo, anch'io mi sgancio, che vado un po' giù e mi guardo anch'io un pezzo di partita, là. Ci sentiamo via Motozappa, ciao ciao a tutti. Forza Juve, ciao Claudio, ciao Massimiliano. Anche tu sei juventino, Massimiliano? No, negativo, io sono milanista. Vabbè, io non è che sia molto... Però nonno era juventino, allora simpatizzante, boh. Tanto soldi in tasca non me ne entra. No, ma mai copiato nel passaggio a Massimiliano, che alla fine mi sono deciso, ho preso quella strumentazione. Quindi tu sei chi si è appigliato tre gol? No, vabbè, chi si è appigliato tre gol, Massimo Blimi, però. E ancora dovete raggiungere voi. Capito. E quale strumentazione? Illuminami anche in codice, però non mi viene in mente. No, il Dive Live 901. Ah, bello, bello, bello. Non c'è niente da fare. Guarda, tu mi dirai tutto quello che vuoi, o Marco. Io ho l'801, ce l'ho 3 anni. Se mi si rompe questo rosmetro, lo ricompro nuovo. Prenderò il 901 perché adesso l'801 non lo fanno più. Però ti dico che non ce n'è, guarda, è troppo bello. Ti segna tutto, Per fare il PEP però devi agganciarti il cavetto, Ti danno il cavetto in dotazione, tu l'agganci all'alimentatore. Ok, perché se non c'hai il cavetto agganciato il PEP non lo fa, Sì, Massimiliano, ho letto le istruzioni, ho visto, me le ero scaricate già prima. Sì, mezze misure non ne volevo. Ti dirò, stavo per optare per il Diamond SX 200, ma quello è spettacolare. E poi non devi fare la taratura ogni volta che cambi canale o banda. Bello, bello che è pronto, capito? Sì, sì, ma poi agli incrociati ti segna proprio tutto, è perfettissimo, guarda, perfettissimo. Poi quando li accendi quel LED blu ci sta bene, là. Sì, bello, bello. Non so quanto... Allora, io 3 anni fa l'ho pagato 168 euro spedito. C'ho ancora scatola e scontrino. Ma tu avevi l'HP3? Sì, l'HP3. CN801 HP3. No, io ho preso la HP2 perché mi piaceva più la scala a 20, no, il fondo scala a 20. L'altra era meno più grossolana, mi dal 20 al 30, capito? Poi tanto io non esagero mai, 2 kW, forse nemmeno in sogno li vedrò mai e non mi interessa. Tanto, per quanto lo uso la 27, ma si via. Sì, allora 144 da Media Globe, 144 più la spedizione. Buono, buono, il prezzo è buonissimo. Se vuoi copiare tutto, Simone, 1 kW in chili. No, io ci mancherebbe. Linea di torre 100, basta e avanza. Per letto per come lo uso io. Va bene. L'ora dei film è iniziata. Ciao Antonio, Claudio sei ancora all'ascolto, Massimiliano, ciao a tutti a quelli all'ascolto. Ci sentiamo, ciao ciao ciao, buona serata a tutti. Dai, ciao, anche io mi stacco, là. Ciao Antonio, Claudio, Marco e tutti quelli che sono in ascolto, là. Anche io mi sgancio e vorrei scendere un po' giù, là. Ciao ciao. Ciao Massimiliano, dai, ci aggiorniamo al telefono, sono qua in ascolto io, ciao a tutti. Ciao Massimo, ci risentiamo alle prossime. Ciao Marco, anche a te. Ok, ciao Claudio, ciao Marco, ciao Antonio, ciao. Ciao Massimiliano, ciao, adesso sono qua in ascolto. Ehi, ciao Lucaria, scusa che... Cava, cava. Ci sentiamo, ciao. Quindi, comprate, non ci sono problemi, c'è. Al bordello l'abbiamo fatto, quindi. Vado, facciamo qua, ciao Lucaria. Ciao Claudio. C'era io per tirare prima, Scappa, sovramodulazione. Sono in Coppa Italia, stanno giocando tutte. E è bello già, oggi ce l'ho giù la televisione, toccando a giù e con i camion letto di giù. Anna Giugana. Aspetta, tanto io sto facendo una saldatura, dai, delicata. Io andrò a farmela, vado giù e faccio la doccia, va. Prima di tutto, non traguardi la partita. Cosa dice da me? Ragazzi, no. Capa, adesso vado e mi faccio la doccia. Aspetta, ma ti va a lavare, ti si trova di nuovo. E potrei volavarmi, se no mi fiago di cogliuppa. Ma dai, scendo giù e mi lavo, dai. Via. Via. Ciao, ciao. Ehi, Anto, ciao.